Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, siamo pronti per raccontarsi, per raccontare, o meglio, per essere precisi, sono pronti, perché questo è ovviamente lo spazio dedicato ai festeggiati, dedicato a tutti coloro che hanno motivo di fare festa, e noi siamo qui con loro, per loro, ma soprattutto vogliamo farci raccontare quella che è la loro festa e il motivo della stessa. Abbiamo qui due giovani ragazzi, vai, facciamo le presentazioni così le ascoltiamo un po'. Sono Lorenzo. Io sono Samuela. Oh, benvenuti, benvenuti a tutte e due. Allora, da dove venite, ragazzi? Io, Gambara. Anche io. Gambara, entrambi, che è in provincia di, per chi non lo sapesse, Brescia, Brescia. Allora, cosa vi porta qui questa sera? Diteci un po'. Stasera festeggiamo la festa dei nostri, dei coscritti della classe 98. Oh, 1998, quindi... appena ventenni. Beh, inutile dirti, anche tu immagino, sì. Sì, sì, anch'io. Ok, ok. Quanti siete questa sera? Una ventina. Sì. Beh, dai, un buon modesto. Un buon numero. Di più, però. Si può sempre essere di più. Si può essere sempre di più, dai. Comunque un buon numero. Cosa fate di bello nella vita, ragazzi? Io studio, faccio università. Io... Cosa? Che università? Scienze motorie. Scienze motorie, ma va, per... oddio, non dico l'ambizione, però la speranza di diventare... È un buon preparatore atletico. Ah, preparatore atletico. Eh sì, come mai questa scelta? Ho la passione per il calcio, mi piace il calcio, lo sport. E perché non il calciatore, quindi... Che ormai ormai è tardi, dici. Ormai è tardi. Giochiamo a calcio per divertirci. Beh, però preparatore atletico è interessante, perché sì, al di là dell'aspetto fisico c'è tutto un aspetto di preparazione, appunto, non per ripetermi, però insomma c'è uno studio dietro, c'è una scelta di esercizi, di giorni d'allenamento, di carico, scarico, eccetera, eccetera. Quindi no, dai, molto molto interessante. Quindi quella sarebbe la tua ambizione, no? Sì. Cioè non allenatore, ma proprio il preparatore atletico. Sì, preparatore. Bello, bello, vedi? Ci piace. Spero di non essere una tua squadra. Dice che sarà tosto. Dice che sarà tosto. No, ci piace quando i giovani come voi hanno già le idee ben chiare su cosa vogliono fare da grandi. Al contrario, tu? Io lavoro da 3 anni e faccio metalmeccanico e vai avanti lì. Lima i fucili. Fai i fucili dalla Beretta. I fucili? E dove lavori? A Gambara. A Gambara hanno lo stabilimento lì. Fanno i fucili. Però, insomma, uno sporco d'olio quasi sempre. No. No, riesci a... Vado al lavoro, scarpe da ginnastica. Sì, riesci a salvarti. Sì, perché è tutto manuale alla fine. Non ti sporchi. Ok, giusto. E hai qualche... Allora, abbiamo capito che il ragazzo gli piace lo sport, tu invece hai qualche altra passione? No, io gioco a calcio. Ah, tu giochi invece. Sono più appassionato del calcio e sono un po' più forte di lui. E... Bene, no, lui probabilmente dirà il contrario. No. Ah, lui lo conferma che sei più forte. Anche i miei amici qua fuori. Tutti lo confermano che sei forte. Allora, uno stopper un po'. Ah, un difensore. Piedi zero. Tignoso. Tanta legna. Allora, facciamo così, vediamo se il nostro preparatore, come dire, è già pronto e formato per intraprendere questa carriera. Se il tuo amico dovesse chiederti di volersi rimettere in forma, che piano gli proporresti? Cosa gli proporresti di fare? Questo argomento è meglio tagliare, perché qua a cena ha fatto due. Sì, è stato pesante. E non posso mangiare il fritto di qua e di là, voleva le noci. No, vabbè. Le noci ce le ha nel cervello. Ah, le noci al cervello. Vabbè, è così. Perché attento anche all'alimentazione. Uno sgarro il giusto. Ma alla fine ho sgarrato anch'io, perché... No, certo, sì, è giusto. No, però era solo... mangiare, quindi... Certo. No, era solo per capire, come dire, se ha già un'idea in testa cosa proporrebbe. Dai, facci così, facciamo un piccolo gioco. Allora, se vuoi rimettersi in forma, innanzitutto bisogna iniziare piano piano, perché altrimenti rischi di farti del male o peggiorare le cose. Quindi piano in che termini? Si inizia piccole corsettine, poi più si va avanti si cambia il passo, si fanno delle corse ritmiche alternate e pian piano ci si rimette in sesto. Sì. Quindi alla fine corsa. Sì, un po' di corsa, un po' di... Vabbè, l'alimentazione. L'alimentazione è fondamentale. Sì, e poi magari quando qualche circuitino di forza per lavorare sulle gambe, un po' di corsetta sulla sabbia dove vai bene in affanno. Quella dicono che vada, che faccia molto bene. Sì, anche alle ginocchia fa vedere. La corsetta sulla sabbia, la preparazione inizio stagione dicono che sia un po' portento. Un po' di navette sulla sabbia e vai a casa. Sei come nuovo. No, beh, dai che già sei in forma, le sopporteresti tranquillamente. Non ti senti già meglio? Non ti senti già più tonico? Anche solo a sentirlo. Io sono già in forma. E poi il fatto che tolta la pancetta da birra. No, beh, insomma, sei già in forma, ma si può sempre comunque essere ancora più in forma, no? Quindi non. Non si smette mai di migliorare. Va bene, volete, non lo so, mandare un messaggio ai vostri coetanei, mandare un messaggio a qualcuno in particolare? Ma Dio, sì, che si svegliano fuori un po'. No, addirittura, sono un po' addormentati. No, dai, li salutiamo, ci stanno guardando. Sto scherzando. Molto attentamente, gli mandiamo un bacio. Bene. Soprattutto le ragazze. Beh, giusto così. Anche se ora sono scappate. Beh, insomma, saranno andate in pista, saranno andate a ballare come, sì, come è giusto, sì, che sia la vostra età. Va bene, allora, grazie mille ragazzi, grazie per essere stati con noi e per aver scelto di fare festa insieme a noi, e buon divertimento per questa fine festa, perché c'è ancora un po' di tempo per festeggiare. Alla prossima e grazie, ciao! Ciao!